because the future of the country is a personal question for everyone. È ovvio, lui lo dice, la storia è qualcosa che accade anche dentro le nostre case. Non si può evitare di parlare e di vivere quello che accade anche fuori dalle mura domestiche. Perché Israel is a land of refugees, qui notiamo la parola refugee che serve sempre, vengono composti questi sostantivi da un verbo, quindi il verbo è to refuge e il refugee è colui che si rifugia, ma vale per qualsiasi caso, facciamo il caso del licensing, il licensee o il franchisee da franchising è colui che fa quell'azione, quindi chi si rifugia. Per loro spesso è una questione di vita o di morte. Questo è, credo, non dovremmo mai, insomma, ci serve appunto sentire queste persone che parlano, perché per noi che lo vediamo, come dice lui, across the television screen, dall'altra parte di uno schermo televisivo, è tutta un'altra storia. Per loro, anche se lo vedono in quel modo lì, perché non sempre vedono dal vivo le scene di guerra, però è una question of life and death, perché e questo spiega anche perché Israeli, dice, ci spiegamo, so talk about politics all the time, parlano sempre di politica, forse un pochino lo facciamo anche noi italiani, ma per motivi molto diversi, perché, dice lui, everyone is involved in the future of the country, to be involved in something, essere coinvolti in qualcosa, come in italiano, quindi è una questione personale, di coinvolgimento personale, il futuro del paese. Ma qual è il rapporto di Amos Oz con la lettura e la scrittura? Gliel'ha chiesto sempre Alessandra Tedesco. I have very solid working habits. I get up every morning at 5. I take a short walk in the desert where I live. I drink a cup of coffee and I start writing. I write all the morning, then I take a break and I rest, and in the afternoon I go back to my study to destroy what I wrote in the morning. When I read a book, and after 20 or 30 pages, I have the feeling that I could write it, then this book is not good. I only admire the books which I know I could not write. My all-time favorite Italian novel is Il Gattopardo. It gives in one volume the life of an entire world, and it makes me travel into another world and feel at home in this world. Allora, io adoro queste domande di Alessandra quando chiede agli scrittori proprio il modo di vivere nella scrittura, e loro raccontano queste abitudini secondo me straordinarie. Poi lui è anche particolarmente pittoresco in questo. Lui dice, premette, I have very solid working habits. Solid nel senso di solide, di sane, ma anche proprio molto regolate, quindi sono delle abitudini ferree, potremmo dire noi. Ecco, potremmo dire ho abitudini di lavoro ferree, cioè con delle regole ferree, perché I get up every morning at 5. Mi signori, Amos Oz si sveglia per fare il suo lavoro di scrittore, per andare a fare il suo lavoro di scrittore alle 5 del mattino. E altro che lo scrittore maledetto, la prima cosa che fa non è tracannarsi una pinta di whisky come potrebbe immaginarci uno scrittore, no, lui si fa addirittura una passeggiatina nel deserto. Perché Amos Oz vive in questo posto splendido che è il deserto del Negev, e lui lo spiega, non lo dice qua ma io lo so perché so tutto di lui, e I take a short walk in the desert where I live, perché lui ha in effetti questa casa, dice io vivo nel deserto. Poi ovviamente chi conosce un po' Israele sa che si può effettivamente vivere nel deserto, ma magari essere a 10-15 minuti di macchina da un posto dove si può poi fare la spesa, per esempio. Comunque subito dopo questo, drinks a cup of coffee, una tazza di caffè, and I start writing. Cioè, I start working. E poi I write all the morning. Lui scrive praticamente tutto il giorno, però si fa anche il riposino. To take a break. E qui naturalmente break si può dire appunto to take a break vuol dire fare una pausa, ma give me a break vuol dire anche per favore dammi tregua. E in questo caso invece lui appunto si prende un riposino, and I rest. Rest vuol dire riposare, l'afternoon rest è il nostro appunto, la nostra pennichella. Ma sarà ben soddisfatto dopo il suo riposino? E invece pare proprio di no. Ma che, un po' come Penelope, go back to my study and I destroy, to destroy, quindi I go back to my study to destroy, proprio lo scopo è tornare nel suo studio per distruggere what I wrote in the morning. Poi naturalmente gli scrittori spesso spiegano che questo è molto salutare, perché comunque quello che hanno scritto sì lo distruggono, poi col computer è facilissimo, si schiaccia un pulsante e viene spazzato via tutto, però comunque quello che ha fatto poi torna in quello che farà, e quindi... E questo per quanto riguarda la scrittura. Invece per quanto riguarda la lettura ha una teoria molto interessante. Questo è fantastico. Lui dice after 20 or 30 pages, quando li legge un libro di un altro, quindi dopo 20 o 30 pagine, if I have the feeling I could write it, cioè se mi viene questa sensazione, questa convinzione che io avrei potuto scriverlo, then this book is not good. Allora questo libro non è buono, e non lo dice tanto per umiltà, ma per altri motivi. Beh, insomma, ormai tu lo conosci, avendogli già dichiarato il tuo amore. Non sappiamo com'è finita, non vogliamo saperlo. Lui però svela qual è il suo romanzo italiano preferito. Questa è un'espressione interessante, all time favorite, cioè il mio favorito di tutti i tempi, che in inglese naturalmente è al singolare, quindi un po' un false friend, bisogna stare attenti, non si deve dire all times favorite, traducendo letteralmente dall'italiano, ma all time favorite. Quindi la sua favorite Italian novel di tutti i tempi, di tutte quelle che ha letto perlomeno, è, e possiamo essere naturalmente d'accordo con lui anche su questo, ha fatto una scelta fantastica, è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Mi spezza il cuore dover salutare Amo Sozzi, il grande amore di Giulia Crivelli, ma il nostro tempo radiofonico finisce anche per questa settimana. Dobbiamo ringraziare Alessandra Tedesco che ci ha regalato questa intervista che appunto ha fatto al grande scrittore israeliano. Vi ricordiamo anche il nostro appuntamento in edicola con English 24 da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.